662. Budino di riso. Latte 1 litro, riso grammi 160, zucchero grammi 100, uva di Corinto sultanina grammi 80, candito grammi 30, uova 2 intere, 2 rossi, rum o cognac un bicchierino, l'odore della vaniglia. Cuocete bene il riso nel latte e a mezza cottura gettate dentro al medesimo lo zucchero, l'uva, il candito a pezzetti piccolissimi, una presa di sale e burro quanto un uovo scarso. Cotto che sia, ritiratelo dal fuoco e ancora caldo ma non bollente, aggiungete le uova, il rum e la vaniglia, mescolando bene ogni cosa. Poi versatelo in uno stampo da budino unto bene col burro e spolverizzato di pan grattato. Cuocetelo al forno o in casa e servitelo caldo. Lasciate indietro un terzo del latte per aggiungerlo occorrendo via via che il riso assoda. Basterà per 8 persone.